Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. È lunedì 18 agosto, una buona giornata da Irene Zerbini, ben ritrovati per Spunti di vista. Il sistema è malato, lo si ripete sempre come un refrain, e il 29 agosto, qui di cosa stiamo parlando? Di riforme, naturalmente, dovrà essere presentata la riforma della giustizia. Eppure c'è una sensazione di rassegnazione ancora prima di cominciare. Allora, da una parte è vero, la microcriminalità è in calo in Italia, però sembra che ci sia questa percezione molto diffusa del fatto che tanto la giustizia non c'è. La giustizia non c'è perché quando si parla di giustizia civile, che forse è l'aspetto che ha le ricadute più sostanziose nel vivere quotidiano della maggioranza della popolazione, si registrano ritardi nei pagamenti delle fatture, ne abbiamo parlato anche qui, un male cronico, sembra inestirpabile, che vede spesso come conseguenza non solo fallimenti e problemi di liquidità di aziende, piccole imprese o singoli lavoratori, ma addirittura sempre più diffusa la rinuncia a chiedere quanto dovuto. E noi ci siamo chiesti, ma veramente è così incurabile questo male? Veramente è impossibile ottenere giustizia in tempi ragionevoli? E la riforma della giustizia civile assume dunque una rilevanza immensa anche nella vita quotidiana di noi cittadini. Ne parleremo dalle 8:30 e se volete partecipare 800 24 00 24, il numero telefonico da comporre. Invece andremo a controllare nella vostra, non è proprio così, proprio meno, andremo a cercare nell'immondizia quegli 8 miliardi di euro di cibo che finisce in spazzatura, questo secondo il rapporto di Waste Watcher Knowledge for Expo. Oggi però partiremo da alcune considerazioni positive sugli sprechi alimentari. Prima di tutto sta crescendo la sensibilità verso questo tema e poi le eccedenze di mense, ospedali, industrie che producono alimenti vengono recuperate e distribuite in Italia a 9.000 strutture caritatevoli. Ne cito alcune: Caritas, San Vincenzo, poi ci sono le parrocchie, le associazioni. Sono più o meno 21.000 tonnellate di cibo che si recupera. Sono 700.000 porzioni l'anno. Queste le cifre attuali. Ma coprono il fabbisogno? Non ancora. Serve infatti il doppio. Le aziende che oggi in Italia donano le eccedenze sono 1.000 e anche in questo caso l'obiettivo è raddoppiare. E voi? Noi? Cioè ogni singola persona. C'è qualche operazione particolarmente efficace che avete cominciato a fare, visti i risultati? La vorreste condividere? Perché di questo parleremo, anche del coinvolgimento di tutta la comunità in questa lotta agli sprechi alimentari. Sempre 800 24 00 24. Tra poco invece andremo a incontrare quei nomi sconosciuti forse, ma che contribuiscono più di altri, attenzione, a creare fantasie, immagini, evocazioni, conoscenze e cultura sul nostro paese. Sto parlando dei corrispondenti stranieri. Visti da fuori. 8 e 16 minuti ed è il momento di andare in... cambiamo continente oggi, in Cile. Hola Patricia. Hola. Stiamo molto bene. Come state tu e i tuoi ascoltatori? Adesso facciamo un sondaggio e risponderanno tra poco al 349-238-6666. Sì, perché abbiamo dato il numero di telefono e abbiamo scordato con grande colpa il numero di SMS. 349-238-6666. Patricia Maiorga Marcos scrive per il Mercurio e lavora per Radio Bio Bio. Inoltre è una scrittrice e tu, tra l'altro, hai scritto un libro che si intreccia molto bene con la ragione per cui hai lasciato il tuo paese, tra poco ne andremo a parlare. Come si intitola questo libro? Cóndor Negro, pero las relaciones secretas entre Pinochet y la Internazionale Fascista. En Italia lo publicado con la Spelling, quindi il Cóndor Negro y rapporti segreti tra Pinochet e l'Internazionale Fascista, uno de cui capi era Stefano Delle Chiaie. Io ho partito da un attentato che è stato fatto nel 1975 a Roma a un democristiano cileno ex vicepresidente della Repubblica, uno dei democristiani che non hanno mai sostenuto il golpe, l'hanno tentato di uccidere a lui, i colpevoli sono stati Concutelli Delle Chiaie, appunto. E questo libro si intreccia naturalmente alla storia del tuo paese, ma anche al motivo diverso dagli altri corrispondenti, decisamente diverso, per cui tu ti sei trovata in Italia. Perché sei arrivata qua? Appunto, io sono venuta via dopo il golpe in Cile. Il golpe è stato 1973 e io sono venuta via nel 75, quindi un anno e mezzo dopo il golpe. E sei venuta via perché eri una giovane giornalista. Una giovanissima giornalista, sì, appena laureata, sì. E cosa sapevi, cosa avevi già visto dell'Italia prima di partire dal Cile? Dall'Italia tutto quello appunto che si sa della scuola, dell'arte e tutto quanto, cinema. E anche appunto perché arrivava molto cinema italiano, il neorealismo, per esempio io ero piccola quando a casa mia si parlava dei ladri di biciclette, poi anche il sorpasso per esempio, quindi si sapeva d'Italia, molto d'Italia. E tu sei arrivata in Italia perché, come racconta tra l'altro benissimo anche un film di Costa Grava straordinario, Missing, è l'unica ambasciata aperta in quel periodo. Era l'ambasciata italiana. Appunto, era l'unica ambasciata aperta, e questo tanto di cappello ai funzionari del Ministero degli Esteri italiani, perché anche se il governo italiano non aveva, appunto perché il governo italiano non ha mai riconosciuto il governo di Pinochet, loro stavano anche con uno status di turista, quindi praticamente tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto per convinzione democratica. E rimanevano appunto per dare la possibilità ai perseguitati del regime di rifugiarsi e in qualche modo salvarsi la vita. E tu sei arrivata qui. Quanti sono i cileni che in quel momento hanno ottenuto asilo politico in Italia? Approssimativamente, ovvio. Infatti, più o meno. Un migliaio? Sì, più o meno. Meno di altri paesi, perché in Italia non davano tanto la possibilità. Cioè, io mi ricordo, uno arrivava in un albergo, in un bel albergo, devo dire a Roma, sulla Nomentana, e la Regina Margherita, invece quelli che avevano figli andavano a Grottaferrata, potevi stare 6 mesi lì, poi ti davano 500 euro e poi te dovevi arrangiare. 500 mila lire forse? Dollari. No, dollari, che era allora tipo 600 mila lire. Ora tu ormai da tanti anni racconti l'Italia e in questi decenni ti sei trovata, immagino, a scrivere molto di politica. Recentemente gli ultimi articoli che hai fatto sono sempre incentrati sulla politica o sono altri gli interessi dei capi redattori, capi servizio, di coloro che commissionano i pezzi stando in Cile? Allora, io da 20 anni sono corrispondente del Mercurio, che è il quotidiano più importante del paese, e ho cominciato appunto con Tangentopoli, quindi molta politica, e adesso invece niente politica perché i miei capi considerano che non c'è la possibilità di approfondimento, quindi oltre alle interviste che si possono o non si possono fare, loro preferiscono farlo tramite le agenzie. Io adesso scrivo su turismo ed enogastronomia. Turismo ed enogastronomia, perché cultura. E cultura, perché considerano che la politica italiana, insomma, non è più, cioè è coperta dalle agenzie, ma non offre quegli spunti suggestivi, quasi surreali, che ha offerto in questi anni, e per questo siano diventati più noiosi. No, appunto, no, io credo che sono scelte proprio il giornale, anche il risparmio, perché con le agenzie non pagano i miei pezzi, invece i miei pezzi me li devono pagare a parte, quindi io credo che c'entra anche questo, perché per esempio Renzi le hanno dato abbastanza diffusione. All'avvento di Renzi, al governo. All'avvento di Renzi, sì. Adesso devo dire tutto più calmo, però le hanno dato abbastanza diffusione. Ma l'Italia esercita un magnetismo sui cileni come su altri paesi che abbiamo incontrato proprio nel corso di questa rubrica? C'è interesse? Non un magnetismo, il magnetismo, direi, cioè tutto quello che Italia è ben accolto, sia il cibo, sia la, in questo momento soprattutto cibo è qualcosa di moda, perché per esempio praticamente non arriva il cinema italiano, arriva molto il cinema americano, ma il cinema europeo in generale e italiano in particolare quasi non arriva più. Quali sono gli ultimi articoli, gli ultimi temi che hai sviscerato per El Mercurio? Proprio l'ultimissimo è stato la scoperta di un borgo o castello di Postignano in Umbria che è diventato un albergo diffuso. È stata un'esperienza stupenda perché è un paesino postignano fondato l'anno 1000 che non è mai stato disabitato fino al 1966. Dal 66 al 92 è stato disabitato, poi l'hanno comprato due architetti e poi hanno rifatto questa idea dell'albergo diffuso, quindi tutte le case sono diventate stanze, suite d'albergo, e c'è un ristorante stupendo tra l'altro, che è il ristorante dell'albergo borgo, diciamo. Cioè tu ci stai raccontando di un paesino disabitato recuperato completamente da questi architetti, ma ora sono tornati gli abitanti? No, se il paese è disabitato l'hanno comprato, perché si vendono pure il castel di Postignano, come dico, si vendono questi appartamenti e anche si affittano per una notte, come un albergo. No, gli abitanti non sono tornati, alla fine rimanevano, ci raccontavano gli architetti, rimanevano 6-7 famiglie che il 66 dopo un leve crollo del terreno sono stati fatti andare via, loro sono andati via, hanno fatto casa a valle e no, non sono tornati. E quindi ti hanno chiesto dunque di raccontare l'Umbria, ma non la solita Assisi praticamente. Appunto, mi hanno detto: senti, non fare Assisi. Perché infatti vogliono che io scopra dei paesini, delle realtà diverse, perché ormai come il Cile, il paese che sta meno male dell'America Latina dal punto di vista economico, anzi sta benino, i cileni viaggiano molto e quindi soprattutto questo settore medio-alto economicamente, quindi se vieni una volta, certo la prima volta vai a Assisi. La prima volta vai al Vaticano. Oppure a Roma, appunto, no, a Venezia, a Firenze, le solite tappe. Appunto, la prima volta vai a Roma, sì, Firenze, Umbria, per quello dicevo, sì. Però poi magari si viene e ti fa piacere scoprire anche questi paesini, no? Che questo è stupendo, io sono rimasta proprio incantata, perché non è il tipico paese di cartapesta. Loro, questi architetti, l'hanno restaurato in modo stupendo, quindi ti sembra di fare proprio un tuffo nel Medioevo. E questi cileni che viaggiano, molti di questi cileni che hanno raggiunto una certa tranquillità economica, sono di origine italiana, perché non dimentichiamo che il Cile è stato anche una delle mete degli emigranti italiani. Cos'è rimasto di questa emigrazione italiana in Cile? Allora, in realtà non sono tanti migranti, perché la maggior parte delle migrazioni italiane è andata soprattutto in Brasile e Argentina. Sì, però ci sono delle comunità interessanti, parlano. Ci sono delle comunità, per esempio il gruppo economico più importante è il gruppo Angelini, di un emigrante che è morto a 90 anni nel 2007, e questo Anacleto Angelini di Ferrara si chiamava, e quindi sì, esattamente, e quindi è il gruppo economico più importante. Poi in questo momento, secondo dati del Ministero degli Esteri cileno del 2013, sono circa 96.000 italiani, quelli che abitano in Cile. 96.000, allora, italiani che hanno accenti veramente singolari. Quando si parla con loro emerge dal genovese all'emiliano, il romagnolo, ci sono queste, c'è questo mantenimento dei dialetti molto interessante. Appunto, sì, però già si parla infatti della seconda generazione, probabilmente tu hai parlato con le persone un pochino più grandi, perché già sta parlando seconda o terza generazione. E bisogna dire una cosa, che nonostante il Cile, come tutti i paesi dell'America Latina, vi ha raccolto con le braccia aperte, però comunque esisteva questa cosa che tu non sei cileno. Poi in Cile esiste è un paese abbastanza diviso in casa, c'è questa che si chiama aristocrazia, che aristocrazia non è, però a loro piace dire aristocrazia castigliano e vasca, che sono cioè gli italiani hanno incontrato problemi fino a non poco tempo fa a essere integrati del tutto. Infatti prima braccia aperte, però per esempio non tanti anni fa, il 2000 per esempio, è stato eletto come magnifico rettore dell'Università Cattolica, quindi che ci sono due università importanti ancora, l'Università del Cile e l'Università Cattolica, a parte tutte queste che sono nate dopo Pinochet, però questa è l'università importante, hanno i figli delle persone abbastanza era ricche. Candidato un italiano? Era candidato l'italiano, io parlando con altre persone mi hanno detto no, perché l'italiano ancora non era sdoganato del tutto, insomma. Appunto, però invece dal 2000, e poi questo medico è stato anche il decano della facoltà di medicina. È riuscito a farsi eleggere rettore. Dobbiamo salutarci, Patricia, vuoi salutarci, visto che in questa rubrica facciamo sentire anche i suoni di altre lingue in spagnolo? Dato che io sono arrivata tantissimi anni fa, vorrei salutarmi con i versi di un poema di Neruda. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, che vuol dire noi quelli di allora ormai non siamo gli stessi. Vale un po' per tutti, molto bella questa tua citazione. Patricia, grazie naturalmente per il tuo tempo e ci risentiamo chissà, forse nel corso degli anni a venire, con altri racconti dal Cile. Patricia Mayorga Marcos, cilena, è stata la ospite oggi di Visti da Fuori, scrive per El Mercurio e prepara le sue corrispondenze per Radio Bio Bio, la radio più ascoltata del Cile. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Rieccoci insieme, 8:32, ci chiedono quando si spreca e quanto si spreca, numeri che abbiamo già dato. In Italia lo spreco complessivo di cibo dai campi alla filiera, al bidone della spazzatura domestica, vale 8 miliardi e 100 milioni di euro l'anno. Più o meno, se dovessimo dividerlo per il numero delle famiglie, dei nuclei, diciamo così, esistenti in Italia, più o meno, è stato fatto questo calcolo, sono 6 euro e mezzo settimanali a famiglia, sono 630 grammi circa di cibo sprecato. Ora c'è chi controlla se il cibo scaduto è ancora buono prima di gettarlo, e questo è l'81% degli italiani. Non era così. Complice la crisi, ma anche una sensibilizzazione in materia di sprechi, era solo il 63% all'inizio dell'anno scorso che lo faceva, siamo già all'80%. Quando si va al ristorante c'è un 76% che vorrebbe portare portare a casa il cibo avanzato. Era un tabù fino a pochi anni fa. E sempre più ristoratori invece si vedono chiedere la famosa doggy bag. Sempre nell'ottica del non sprecare. Il 30% riesce anche a ottenerla, questa doggy bag, con una certa frequenza. Il 46% però dice sì, andiamo al ristorante, lo chiediamo, ma non ci sono i contenitori per farlo. Altri ammettono di essere troppo timidi per chiederlo. E voi come vi comportate? Questa sarà la tematica delle 9 sugli sprechi. Andremo ad analizzare anche delle pratiche virtuose che hanno portato ottimi risultati nel campo della riduzione delle eccedenze, soprattutto industriali. Ora però cambiamo pagina, perché ci sta molto a cuore una tematica affrontata diverse volte anche da questi microfoni, che è la giustizia civile. La certezza che una giustizia, che uno Stato esista, si consuma spesso proprio lì, nei corridoi dei tribunali civili, al di là di quello che succede nel penale. Altro tema che è stato affrontato varie volte, al di là di quello che succede per esempio nel campo della microcriminalità, che è in discesa in Italia negli ultimi decenni, ci sono sistemi che incidono molto sulla sensazione da parte dei cittadini di essere tutelati, di essere all'interno di una procedura che responsabilizza, che è costituita da diritti e doveri. E sicuramente il sistema della giustizia civile è in prima fila nel sortire questi effetti. Per questo oggi noi affronteremo questa problematica del litigare, si affollano i tribunali in Italia, senza però a volte riuscire a ottenere soddisfazione, perché i tempi sono biblici per la risoluzione di una causa. Ora, alla vigilia della presentazione della riforma della giustizia civile il 29 agosto, cosa andrebbe effettivamente fatto? Noi ne parleremo con la presidente dei giovani avvocati, Nicoletta Giorgi. Buongiorno. Buongiorno. E la presidente dell'AIGA, dunque, che ha scritto una lettera al ministro della giustizia Orlando suggerendo come ridurre i tempi dei processi, e con Bruno Tinti, magistrato, buongiorno. Buongiorno. Lei, Bruno Tinti, ha scritto non solo questo, ma un mirabile articolo sul Fatto Quotidiano che ha il merito di tagliare tutti i tecnicismi e spiegare cosa mette il freno in qualche modo al sistema di giustizia civile in Italia. E comincia così: Caio deve a Tizio 50.000 euro, ma non glieli dà. Sa che se anche Tizio lo cita in giudizio, prima di 8 anni il processo non finirà. Tanto vale aspettare a pagare e morire. Perché lei, dottor Tinti, ha estratto questa cifra, 8 anni? Questo è un dato noto. La durata media dei processi in Italia è di circa 8 anni, tra civile e penale c'è poca differenza. Intendiamoci, quando si parla di processi, si intende tutto il percorso giurisdizionale, quindi primo grado, tribunale, secondo grado Corte d'Appello, terzo grado Cassazione. Quindi quando si dice un processo dura in media 8 anni, significa che se Tizio vuole quei famosi 50.000 euro e se Caio non glieli vuole dare, lui dovrà fare 3 processi veri e propri, tribunale, appello e Cassazione. Attenzione, poi in civile si trascura sempre un altro aspetto molto importante: avere alla fine una sentenza definitiva che dice hai ragione non vuol dire che prendi quei 50.000 euro. Ah, c'è in più quel problema. Vuol dire che hai un pezzo di carta che dice che Caio effettivamente ti deve 50.000 euro, poi gli devi prendere i soldi. E qui si apre tutto il processo di esecuzione, che è un'altra cosa lunghissima e che naturalmente significa anche spendere altri soldi, perché bisogna ricorrere a un avvocato e continuare insomma a litigare in tribunale. 800 24 00 24, stiamo parlando di come concretamente migliorare questo sistema della giustizia civile. Tornando al caso di Caio che deve a Tizio 50.000 euro, a un certo punto Tizio si stufa di aspettare, va da un avvocato. Ecco, questo avvocato come prima cosa farà, Bruno Tinti? Ovviamente è tutto previsto dalla legge, glielo dico subito cosa farà, ma dobbiamo tener conto di una cosa: è il sistema che è proprio sbagliato. Ma proviamo prima di giudicarlo a descriverlo, perché molti si sono trovati, come ha fatto in questo articolo, perché è eccezionale, ha ripercorso tutte le tappe del povero tizio in cui molti si immedesimano per ottenere quanto dovuto. Quindi lui va dall'avvocato pensando... L'avvocato ovviamente lo ascolta e fa un atto di citazione, sì, che significa mandare un documento a Caio dicendo guarda, dai questi 50.000 lire a tizio, 50.000 euro a tizio, perché altrimenti vado davanti al giudice e chiedo al giudice di darmi ragione e di obbligarti a darmele, e glielo fa notificare. Che cosa succede? Che gli deve dire quando si vedono davanti al giudice, e qui c'è il primo punto, funziona tutto così. La legge prevede che questo appuntamento davanti al giudice deve essere dato non prima di 90 giorni, 90 giorni sono 3 mesi. Perché? Perché la legge pensa che tutto sommato Caio deve avere il tempo di raccogliere le idee e di pensare ma io davvero gli devo dare questi soldi oppure no. Quindi l'avvocato di Tizio dice Caio ci vediamo davanti al giudice tra 3 mesi, in realtà non tra 3 mesi, perché può succedere che la notifica, cioè il fatto che qualcuno porti questa lettera a Caio, vada male, che Caio non la riceva, che bisogna mandarla di nuovo. Quindi invece che tra 3 mesi ci vediamo davanti a Caio, magari fra 4 mesi e mezzo, bisogna prendersi un po' di tempo in più. E quindi Caio si riceve questa lettera e sa che fra 4 mesi circa dovrà essere davanti al giudice per rispondere al tizio. E siamo ancora all'anno 1, anno 1, qui ne abbiamo citati 8. Adesso in sintesi ci sono tutti questi passaggi, c'è anche lui Caio, naturalmente anche lui prende l'avvocato e decide di non solo di dire a Tizio che non gli deve per niente quei soldi, ma addirittura che è lui che deve avere dei soldi. Questa si chiama domanda riconvenzionale, ma non entriamo in questi tecnicismi. E poi a sua volta notifica Tizio che la sua posizione è questa, e si va avanti così sempre all'anno 1. Il 20 aprile in tribunale gli avvocati spiegano al giudice quello che hanno già raccontato nella citazione, nella comparsa di risposta. Il giudice ovviamente deve studiarsi gli atti e quindi si riserva e dice ci vediamo tra 30 giorni, in realtà anche di più perché l'agenda è pienissima a causa degli altri 500 più o meno processi che sono affidati a quel giudice, quindi tutti si rivedono al 30 giugno. E voi pensate, bene, adesso cominciamo il contenzioso. No, perché poi si chiedono termini per depositare una memoria in cui si riscrive tutto quello che era già stato scritto e ci si contesta altri 30 giorni. Quindi 30 luglio? No, perché il 20 luglio i tribunali chiudono. Si chiama sospensione dei termini, lo prevede la legge, ci si rivede a settembre e così via. Cioè, avvocato Nicoletta Giorgi, lei naturalmente ha familiarità con quanto stiamo raccontando. Purtroppo sì. E ha provato, tra l'altro le è stato anche risposto, ha ottenuto anche una risposta dal ministro Orlando, ha provato a suggerire una modalità, vediamo quanto efficace, su come ridurre i tempi dei processi. Proviamo a sintetizzare qual è stata la sua proposta. Sì, proprio rivedendo questo percorso della citazione, del dover andare davanti al giudice in udienza, questo giudice che necessariamente si riserva per poter studiare gli atti, per vedere quali sono effettivamente i motivi del contenzioso, ci siamo chiesti come associazione, ma effettivamente questo processo civile, quali sono le parti imprescindibili per tutelare il contraddittorio e quindi le ragioni di una e dell'altra parte, quali invece sono i tempi morti, quelle proprio queste lungaggini che portano ad aumentare la media della durata del processo. Ci siamo resi conto che oggi il processo civile, nonostante il codice dica avere la caratteristica dell'oralità, ormai è un processo fondamentalmente scritto. E quindi ci siamo detti, dobbiamo necessariamente andare a puntare sulla semplificazione del processo, ma non con un intervento esclusivamente nella procedura e quindi trovare quali siano gli udienze, gli appuntamenti che possono essere eliminati o quantomeno modificati, ma ragionare in senso ampio, vedendo cioè effettivamente oggi che cosa ritarda il processo. E oltre a temi strutturali che poi anche affronteremo naturalmente, mancano i magistrati, mancano naturalmente tutta una serie, non solo i magistrati, il personale amministrativo sufficiente per notifiche, tutte quelle procedure importanti per far funzionare i tribunali, affronteremo anche questo capitolo, ma rimaniamo all'interno della procedura, appunto, avvocato Giorgi, e quali sarebbero state le soluzioni che voi sperate che possano essere accolte nel processo di riforma? Nel processo di riforma ci auguriamo che, oltre alla udienza, come giustamente diceva il dottor Tinti, ci si trova ad una prima udienza di lì a 90-100 giorni. Benissimo. La proposta di trovarci davanti al giudice con la consapevolezza da parte di tutti i protagonisti, quindi l'avvocato di Tizio come l'avvocato di Caio e anche il giudice, di quali sono i fatti di causa veri e propri, quindi un po' a carte scoperte, individuando quelli che sono gli aspetti ancora da verificare e gli aspetti che sono già chiari, e in questo modo prevedere di recintare un po' il processo, cercando di individuare quale può essere il termine ultimo dove Tizio finalmente potrà avere la propria sentenza, senza lasciarla in balia di una serie di rinvii che aiutano la calendarizzazione del processo, ma che appunto non aiutano i tempi, ad avere dei tempi ragionevoli. Cioè, lei dice si metta una data certa entro la quale ci deve essere il pronunciamento. Esattamente, una data certa di durata del processo, in un lasso di tempo che all'interno del quale si gestiscono le attività del processo e quindi le attività difensive, ma entro cui il giudice sa che dovrà portare a termine questo, la sua attività di giudice, appunto, quindi emettendo la sentenza. Ma è chiaro che è un non è utopico, ma intendo dire è un orizzonte che tutti condividiamo, ma certo, in che modo arrivarci? Tra poco ce lo dirà, e sono tantissimi gli ascoltatori che stanno affollando le nostre linee, avvocato, per raccontarci di cause civili durate 14 anni, cose incredibili. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ancora buongiorno da Irene Zerbini, la guida va bene, attenzione, non arrabbiatevi per queste questioni. A Reggio Calabria, ci spiega oggi l'apertura del Sole 24 Ore, ci sono 101 cause su 1000 abitanti. Roma si trova al top per quanto riguarda il processo civile Imperia, in cui sono a sorpresa, nel penale, e praticamente provincia per provincia, alla vigilia di queste modifiche annunciate dal governo, si è provato a fare il punto della situazione sugli intasamenti, gli ingolfamenti dei tribunali italiani. Un'inchiesta che ci fa capire che, oltre che a Reggio Calabria, dove ci sono 100 cause ogni 1000 abitanti, si litiga molto anche a Foggia, 98,6, Catanzaro 95,4, ma Milano non è da meno, perché al nono posto con 86,9 cause ogni 1000 abitanti. Per fortuna i bimbi piccoli piccoli non sanno parlare, sennò sarebbero in tribunale anche loro a farsi sentire. Ora noi abbiamo provato e stiamo provando con Bruno Tinti, quindi con qualcuno che ha un'esperienza non solo di giornalista ma di magistrato, e con la presidente dei giovani avvocati, a capire in pratica cosa si potrebbe fare per quantomeno, se non risolvere, migliorare decisamente questa situazione. E molti di voi ci vogliono raccontare la vostra esperienza. Tra pochissimo vi diamo la parola, 800 24 00 24. Vorrei finire con l'avvocato Giorgi, Nicoletta Giorgi, di capire come ottenere questo orizzonte che lei ha tracciato e ha scritto al ministro Orlando, come avvicinarvisi. Cioè, il giudice deve dare una data certa entro la quale ci sarà il pronunciamento. Quali passaggi tagliare per arrivare a questo, avvocato Giorgi? Tagliare quelli che abbiamo accennato all'inizio di questa chiacchierata, cioè quei tempi morti, cioè quelle fasi di udienza e quindi di incontro del magistrato con gli avvocati, dove l'attività non è un'attività principalmente finalizzata ad esplicitare le difese di una dell'altro, ma è un'attività interlocutoria dove appunto il giudice si riserva, rinvia ad un'altra udienza, ci sono le memorie nel mezzo, cioè gli atti difensivi che vengono depositati. Questa attività d'udienza toglie evidentemente tempo al magistrato nell'esercitare la sua funzione, nell'eseguire poi tutte le attività che sono anche collaterali e ausiliarie a quelle di emettere la sentenza finale. Perché arrivare a questo? Perché appunto dicevamo oggi il processo civile è fondamentalmente scritto. Eliminando questi momenti dedicati all'incontro e che possono essere sopperiti tranquillamente dalla lettura delle difese degli avvocati, c'è un notevole recupero di tempo che può essere impegnato nell'attività di studio, nell'attività di emissione della sentenza, dei provvedimenti a difesa del buon tizio che si è rivolto al giudice per avere la tutela dei propri interessi. Nicoletta Giorgi, dunque lei dice: liberiamo il giudice da questa parte dell'attività di udienza in modo che si possa poi contestualmente pretendere che si pronunci in tempi ragionevoli. Lo chiedo al giudice. Bruno Tinti, è possibile? È una strada percorribile? Beh, sì e no. Sì, nel senso che è un po' quello che proponevo quando scrivevo il secondo articolo, quello che è venuto dopo quello che lei ha citato, cioè che cosa si deve fare. Il processo è scritto, è molto semplice cosa si deve fare, è inutile che gli avvocati vadano davanti al giudice prima di aver fatto tutto quello che devono fare, quindi scrivano tutto quello che vogliono, prendano tutti i documenti che vogliono, poi si presentano davanti al giudice una volta, gli danno tutto il loro materiale e dicono al giudice: studia e dici chi di noi due ha ragione. E se Tizio e Caio hanno altro da aggiungere? No, si arrangiano, a meno che non siano fatti nuovi, questo è il problema. Ma vedete, in realtà non è nemmeno questo il problema, nel senso che ci basta una legge, è un progetto oltretutto di cui si è già parlato, gli avvocati si incontrino prima, discutano tra di loro, si scambiano lettere, litighino, poi se non si sono messi d'accordo mandano tutto il materiale al giudice. Quello su cui non sono d'accordo con l'avvocato Giorgi è quando lei dice che bisogna avere una data certa. La data certa in queste cose non si può mai avere, sarebbe come dire a un medico: guarda, io ti do tutti gli esami che ho fatto, ti do le radiografie, i consulti, tutta la produzione scientifica sulla mia malattia, mi devi curare entro un mese. Questo, no, ammettiamo che non ci sia una data così perentoria e irraggiungibile. Lei concorda sul fatto che comunque invece di questi 8 anni si potrebbe ridurre notevolmente il momento del pronunciamento finale? Adesso poi sulla data si può discutere, è chiaro. Assolutamente. Non credo che gli avvocati portino davanti al giudice, gli diano tutto il materiale e il giudice dovrà decidere. Si taglia questo contraddittorio. Si taglia esattamente, gli avevo fatto i conti, circa un anno di attività improduttiva, perché tutta quella serie di scambi, di comparse, di memorie, di documenti, di termini concessi all'uno e all'altro, tra una cosa e l'altra cuba un anno. Quindi certo, si taglia un anno in cui non si fa. Quello senza dubbio, e poi si può fare anche di più perché non è finita qui, ma ne parleremo tra poco. Diamo la parola agli ascoltatori. Cesare, buongiorno, pronto? Pronto, buongiorno, sono Cesare di Verbania. Devo purtroppo invitarla alla sintesi perché, come sa, tutti vorremmo raccontare nel dettaglio tutte le nostre vicissitudini. Cerchiamo di andare al nocciolo. Sì, credo che mi ha riservato un lungo spazio di tempo. Ascolti, sì, dica Cesare. Sono un artigiano, ho brevettato negli anni 80 un utensile, una cosa speciale che ho costruito facendo un mio brevetto. Il cliente contesta l'esclusiva in base a un foglio buttato giù in una fiera in brutta copia. Si trattava di decidere se io dovevo l'esclusiva a lui o potevo vendere liberamente. Beh, ce l'ho messo 14 anni. E alla fine cosa si è deciso? A Verbania, scusi, in primo grado il giudice dice che devo pagare. A Torino in appello dice di no, cioè il contrario, sì. Non che ha variato di poco, ha detto l'opposto. Proprio l'opposto, sì. Va bene, a 10 anni dall'inizio. In Cassazione a Roma confermano che sono a posto. 60 milioni di spese, l'attività chiusa per 8 anni, la casa sotto possibile sequestro, si parlava di centinaia, ho perso, se non mi è venuto un esaurimento nervoso. Adesso io ho ripreso e continuo a farla, questa pinza. È una vergogna. Se c'è lì il magistrato lì, si vergogni, ha capito? Beh, non è responsabilità di tutti i magistrati, purtroppo è un sistema che è disegnato in un certo modo in cui si sono trovate a confluire una serie di elementi. Capisco però la sua amarezza, Cesare, è pazzesco. Poi questo primo grado, secondo grado, poi primo grado, terzo grado, che torna a quanto deciso nel primo grado, conferma che non è che i giudici d'appello siano più esperti, più preparati, più lavoratori, come cita anche Bruno Tinti nel suo articolo, tant'è che tante volte un giudice che lavora in tribunale poi si trasferisce in appello, poi torna in tribunale, quindi in molti casi anche questi appelli potrebbero essere eliminati, ma tra poco ne parleremo. Continuiamo con voi, con le vostre esperienze. Pasquale da Foggia, buongiorno. Buongiorno. Sì, dica. Buongiorno. Senti, sarò telegrafico perché mi rendo conto che l'economia di tempo è importante. Grazie. Io, Pasquale. Allora, in una causa di recupero credito durata ben 18 anni, quando ho avuto la sentenza definitiva, il debitore intanto si era privato di alcuni cespiti e quindi una cosa. In poche parole, abbiamo aggredito un cespito, gli 8-12 cespiti di un cespito, eccetera. Quando praticamente, in conclusione, abbiamo recuperato una certa somma con la vendita all'asta, eccetera, in cui si è insinuata l'Agenzia delle Entrate per dei debiti erariali che erano nella precedenza. Insomma, concludendo, noi sì, abbiamo recuperato soltanto la somma corrispondente alle spese del mio avvocato che ho dovuto pagare, punto. Lei lo rifarebbe? Cioè, se lei si ripresentasse una questione del genere, rinuncerebbe all'azione civile? Assolutamente no, assolutamente no. Ora, in una commissione, in un ricorso alla commissione tributaria contro l'accertamento di una certa somma secondo loro non dichiarata, eccetera, vabbè, che cosa ha fatto l'Agenzia delle Entrate, cioè la controparte? Intanto mi ha invitato a pagare il 50% della somma oggetto del contendere. Okay. Certo, intanto quello ha dovuto pagarlo, è chiaro. Perché, e siamo in attesa della sentenza. Su quello si è molto veloci. Perché non si fa altrettanto in una cosa? In primo grado, intanto tu autorizzi ad aggredire un cespito per recuperare cose. Perché lo Stato si è preoccupato di farmi intanto pagare il 50% dell'oggetto del contendere? Altrettanto potrebbe farsi in campo civile. Grazie per il suggerimento pratico, Pasquale, grazie mille. Chiama da Foggia questo ascoltatore, è veramente triste sentirsi dire non lo rifarei più, cioè in pratica, in sostanza, della giustizia io non mi fido. È per questo che queste lungaggini, che poi sembrano semplicemente dei numeri, in realtà hanno degli effetti devastanti, non solo sulla vita delle persone, l'abbiamo sentito, ma anche sul rapporto che si ha, si parla sempre di educazione civica, con quelle che sono le istituzioni. Noi continueremo a parlarne naturalmente dopo il giornale radio. Intanto sentiamo Angelo da Perugia e arriveremo con le conclusioni del nostro magistrato Bruno Tinti, oggi nostro ospite, della presidente nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati Nicoletta Giorgi. Angelo, buongiorno, abbiamo un minuto, dica. Da Perugia. La mia esperienza di giudice di pace. Angelo, devo bloccarla, non per volontà censoria, ma veramente una linea non riusciamo a capire, non riusciamo a comprendere cosa lei intenda dire. Vediamo se riusciamo a recuperarla tra poco o se può fornire un fisso. Quindi abbiamo sentito, Bruno Tinti, anche la possibilità e i suggerimenti degli ascoltatori, dal liberarsi del tabù dell'appello alla possibilità di aggredire, come dire, il bene della persona che deve dei soldi in caso di pagamenti già dal primo grado. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E sono mille anche i suggerimenti per ridurre i tempi della giustizia civile che arrivano dai nostri ascoltatori. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Chi fa ricorso, ci segnala Ivana con un sms al 349-238-6666, chi è in torto marcio e lo fa solo per allungare i tempi deve poi essere punito ulteriormente. C'è chi ci dice, tra l'altro, che essendo amministratore di condominio, ha ricevuto una citazione per una differenza sul riparto spese per 95 centesimi a suo danno. Questa è una segnalazione che ci arriva da Genova. E poi qualcuno ci scrive, un responsabile aziendale di una multinazionale austriaca, e ci fa notare come per loro lavorare in Italia abbia dei costi tremendi dovuti alla burocrazia e alla lentezza, quando non impossibilità, di risolvere i contenziosi in tempi ragionevoli e compatibili con il lavoro che si svolge. Questa è una segnalazione che ci è stata fatta a più riprese da diversi soggetti proprio nel corso di questa trasmissione, relativa alla scarsa competitività dell'Italia dovuta anche a queste questioni. Per questo siamo molto grati a Bruno Tinti, ex magistrato, giornalista e scrittore, che ha tentato di dare delle soluzioni pratiche, ancora scrive su questi temi, per abbattere alcuni tabù, e con lui Nicoletta Giorgi, che a sua volta da un altro fronte, perché lei è la presidente nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, cerca di dare il contributo e dei suggerimenti concreti al Ministero, visto che questa riforma si farà, sa da fare che sia almeno una riforma che accolga chi lavora ogni giorno all'interno di queste realtà, perché nessuno più di loro può dire cosa funzionerebbe. Bruno Tinti, tornando a lei, ha sentito i suggerimenti degli ascoltatori e un suggerimento ricalca anche quanto lei scrive in un articolo, perché parla dell'appello. Lei dice, laconico, non serve a niente. Si può abolire? Non serve niente, sì, è solo un'occasione per moltiplicare le possibilità di errore. L'appello avrebbe un senso se fosse qualitativamente diverso dal tribunale, quindi un giudice più preparato, che ne so io, più anziano, la garanzia che magari capisce di più, ma siccome ovviamente non è così, no? Sarebbe come dire che dopo aver fatto visitare un malato da un medico che ha prescritto una certa terapia, proprio per legge bisogna andare da un altro medico per sentire se quella terapia va bene o no. Magari quello dice no, non va bene, ne serve un'altra. E noi come facciamo a sapere chi dei due medici aveva ragione? E la stessa cosa succede in tribunale o in appello. Quindi da una parte l'appello ci fa perdere tempo, dall'altro abolire l'appello significa recuperare 1200 giudici. Esatto, volevo chiedere dal punto di vista del recupero del personale, visto che servono magistrati tra appello e procure generali, lei pensa che recupereremo 1200 giudici? Sì, circa, si recuperano quelli. E quindi l'organico dei tribunali aumenta quasi per la metà? Certo, certo, e quindi naturalmente si possono fare più cause, perché con quel numero di cause spaventoso che abbiamo, più giudici ci sono, meglio è. Qual è il numero di cause spaventoso che abbiamo in arretrato in questo momento in Italia? Ah, in questo anno è più pari nel civile. Deve tener conto che io mi occupo soprattutto di penale. Le posso dire questo: pensi che in penale, in Inghilterra, che ha lo stesso numero di giudici, più o meno con lo stesso numero di cittadini, ogni anno arrivano 300.000 nuovi processi penali, in Italia ne arrivano 3 milioni. Sì, sì, questo è il penale. Ha sentito anche sul civile l'amministratore di condominio che è stato citato per aver sbagliato, diciamo così, sul riparto spese dei condomini, 0,95 euro a danno di qualcuno che l'ha qui, citato in tribunale. Qui tenga conto che un civile, la cosa può essere un po' inquinata dall'enorme numero di avvocati che ci sono in Italia. Noi abbiamo un numero di avvocati assolutamente sproporzionato, cioè abbiamo in Italia circa 250.000 avvocati, consideri che in Francia ce ne sono 40.000. Quindi è qui interesse degli avvocati? Insomma, un atto di citazione comunque rende un po' di soldi. D'altra parte, più gli avvocati sono numerosi, più si pone un problema di disoccupazione anche per loro. E quindi insomma le cause poi figliano, si producono anche per questo motivo. Nicoletta Giorgi, lei che è avvocato ed è anche giovane, perché è presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha sentito quanto citato da Tinti? Sono numeri che ci stanno facendo anche i nostri ascoltatori in continuazione. Uno dei problemi è l'eccesso d'avvocati. Cosa risponde? Voi avete interesse a tirarla per le lunghe, in pratica, in sostanza questo vi si dice? Guardi, fondamentalmente è spiacevole sentire contestazioni che ormai sono portate avanti da anni, ma che hanno creato l'immobilismo nelle riforme, perché si dà la colpa che ci sono troppi avvocati. Oggi gli avvocati sono 230.000 alla data del 31-12 sì. del 2013. E, gli avvocati sono effettivamente tanti, ma siamo prima di tutti noi a dire che siamo tanti. Non è un mistero questo, ma che si attribuisca il numero di avvocati, il numero delle cause, questa è un'equazione troppo facile e che distrae, anche perché non si dà in ogni caso una giustificazione del perché oggi non si possa prevedere un termine specifico di durata del processo. Quando prima il dottor Tinti si preoccupava che i termini fossero stringenti, cioè da lì ad un mese avere la soluzione del controverso. È chiaro che non sarà questa. Ma noi abbiamo fatto qualcosa di più. Il problema è che quando si parla di termini perentorio, improvvisamente poi si chiude l'audio a tutto il resto, a tutte le altre proposte. Oggi non andiamo a proporre un termine perentorio a bocce ferme. Noi oggi andiamo a vedere la necessità di una riforma globale del processo civile, cioè non solamente aggiungiamo un termine per cui il magistrato entro 30 giorni, 60, quelli che possono essere, debba emettere la propria sentenza. Noi oggi diciamo magistrati, siete in un numero chiaramente troppo basso, non adeguato al numero esattamente dei procedimenti. E lei lo sa quanti sono i procedimenti in arretrato nel civile in Italia? Oggi noi parliamo di oltre 5 milioni di procedimenti pendenti, quindi tra quelli che sono, diciamo così, di nascita recente, come anche compresi quelli che invece purtroppo da anni si stanno seguendo questo iter. Da questo punto di vista, ad esempio, l'avvocatura si è messa a disposizione per cercare una soluzione all'arretrato civile, che è un grosso peso per la giustizia. Quello ad esempio di rendersi disponibili con le camere arbitrali e far uscire dal tribunale questi giudizi che sono da anni che pendono e portarli davanti a degli arbitri perché possono essere decisi velocemente. E quindi sembra molto ragionevole e molto efficace. Tra l'altro andrebbe reinvestito nel sistema giustizia. Abbiamo aumentato il contributo unificato, cioè quella marca da bollo di cui molti si lamentano anche via SMS tra i nostri ascoltatori, per cui il cittadino può avere accesso al sistema giustizia. Abbiamo pagato molto di più in questi anni, ma servono più magistrati, serve un'assunzione superiore e poi anche una diversificazione, come suggerisce lei e l'avvocatura dei giovani avvocati italiani, per cui far uscire dalle aule del tribunale quelle questioni che non hanno nessuna necessità di essere lì, diciamolo. Per quel che riguarda invece la semplificazione del processo, sintetizzando, Nicoletta Giorgi si parla del sollevare il giudice da certe udienze che risalgono forse a quando il processo era veramente un fattore molto discusso, molto orale, constatata che ormai questa oralità è, possiamo dire, residuale, per rubarle un termine, bisogna liberare il giudice. Come le ha risposto il ministro? Come ha accolto questa vostra proposta di semplificazione del sistema? Ha raccolto positivamente questa semplificazione del sistema, ha raccolto positivamente anche la perentorietà dei provvedimenti giurisdizionali, quindi senza andare terminologicamente a dire la perentorietà dei termini per i magistrati, ma per i provvedimenti che vanno ad emettere. Raccoglie anche positivamente l'idea di creare una nuova struttura a fianco del giudice, perché il giudice oggi non sia più lasciato solo a gestire l'attività dell'intero processo, ma possa avere il supporto nelle attività di ricerca, nelle attività di predisposizione delle bozze dei provvedimenti, nelle attività di gestione del fascicolo anche l'ufficio del processo. È in questo contesto nuovo che oggi si può parlare con maggiore franchezza di termini perentori, perché è vero quello che diceva prima il dottor Tinti, che di termini perentori se ne è parlato ciclicamente per poi metterli da parte e cercare invece di individuare il problema sui numeri dei professionisti. E invece no, perché se noi oggi troviamo il problema, cioè la durata dei processi, al di là del numero dei processi, la durata dei processi, e individuiamo che la soluzione è quella di ridurne i tempi. In questo percorso noi non ci dobbiamo abbandonare a visioni corporativistiche che vanno a additare a distrarre, come ha detto lei, a distrarre. A distrarre. Concentriamoci dal punto di vista dei cittadini, cioè tutto ciò che potrebbe migliorare la qualità di vita dei cittadini, che spesso nei tribunali, soprattutto nei tribunali civili, sono costretti a dei salti mortali, sono trattati da sudditi in sostanza, e si sentirebbero ancora una volta protagonisti. Noi siamo molto grati a lei, Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Nicoletta Giorgi, proprio per la concretezza dei suggerimenti, per l'invito ad andare al di là degli interessi corporativisti. Grazie per il suo tempo, e grazie mille a Bruno Tinti, che dalla sua veste di ex magistrato, oggi giornalista e scrittore, si è speso nello stesso sforzo. Quindi suggerimenti concreti, tutti elementi che oggi abbiamo messo sul piatto per discutere da qui a una riforma della giustizia che verrà presentata a breve, cosa davvero potrebbe migliorare e cambiare la situazione. Cambiamo pagina, arriviamo alla pagina degli sprechi alimentari, questo è quello di cui parleremo tra poco, e questo è una sorta di viaggio, ci dice qualcuno, un viaggio fino al bidone della spazzatura, cibo ancora utilizzabile, che vale complessivamente 8 miliardi e 100 milioni di euro l'anno, ogni famiglia ne spreca in media 6 euro e mezzo a settimana, però ci sono dei segnali che fanno pensare che ci sia una sensibilizzazione crescente sul tema negli ultimi anni. Infatti ci sono anche delle pratiche virtuose, qualcosa di molto concreto si è riuscito a fare, a portare a casa. E per raccontarcelo abbiamo con noi Andrea Giussani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Andrea Giussani è il direttore del Banco Alimentare, e insieme a lui parleremo di qualcosa che ha permesso il recupero delle eccedenze alimentari. Nel frattempo aspettiamo anche le vostre testimonianze su cosa voi nel vostro piccolo, nella vostra casa, nella vostra cucina, fate all'800 24 00 24 le pratiche da condividere con gli altri. Andrea Giussani, cos'è questo Banco Alimentare? La Fondazione Banco Alimentare è una onlus che in Italia opera da 25 anni e sul territorio è presente con 21 associazioni con simili, cioè che perseguono lo stesso scopo, e cioè recuperare dalla filiera agricola e produttiva, quindi produttori, distributori di alimenti, il catering, tutte le eccedenze alimentari che abbiano caratteristiche di assoluta commestibilità, quindi perfettamente sicure, identiche a quelle che noi consumiamo ogni giorno sulle nostre tavole, ma che per motivi commerciali, per motivi di packaging, per motivi di campagne di marketing non sono più commercializzabili e sarebbero destinate alla distruzione se non vi fosse la possibilità, come noi tentiamo di fare ovunque, di recuperarle e destinarle alle strutture caritative che poi gestiscono mense per i poveri, comunità, eccetera. Cioè voi vi rivolgete ad aziende, a mense, a strutture del catering, supermercati, ristoranti, e vi organizzate in maniera tale da recuperare ciò che altrimenti andrebbe distrutto ma che è assolutamente sicuro. Cioè voi non è che recuperate cibo scaduto, ecco, per intenderci. No, assolutamente, siamo anche legati ovviamente a normative di igiene, di salute dell'alimento, di conservazione, quindi dobbiamo operare in assoluta trasparenza della qualità del cibo che recuperiamo. Lo selezioniamo, lo verifichiamo e poi lo distribuiamo gratuitamente alle strutture caritative. Ovviamente questa cosa sta in piedi perché esiste una rete enorme di volontari, di persone che dedicano tempo, e perché esiste anche una rete di supporto di donatori di alimenti che ci permettono questo recupero. Quindi voi avete più o meno 1700 volontari, quante tonnellate di cibo, se vogliamo dirla in porzioni, visto che poi alla fine di tutto questo processo quello che voi recuperate arriva alle mense delle strutture caritatevoli, sono circa 9000 quelle che servite, quante porzioni in un anno? riuscite a servire? Dividiamo, grazie. Per capire meglio, dividiamo sì. Tutto il cibo, tutti gli alimenti che recuperiamo e distribuiamo in due grandi categorie. Una è il cibo diciamo conservato, secco, come si usa dire, per esempio? La grande quantità, per esempio la pasta, la farina, l'olio, le scatolette di ogni tipo di legume, carne, pesce, eccetera, che quindi hanno una lunga conservazione. Questi vengono raccolti e poi distribuiti in grandi quantità. Vi sono invece le porzioni dei piatti, degli alimenti che non sono state distribuite nella mensa, che avanzano, diciamo così, al termine di un turno di una grande mensa, e questi sono piatti già pronti, cotti, oppure sono quantità di alimenti di ortofrutta e di pane, cioè fresco. La differenza qual è? I primi possono essere raccolti e distribuiti in tempi, diciamo, più lunghi, perché non scadono, perché non perdono la loro qualità. I secondi devono essere distribuiti in giornata, e quindi è necessario, per questo programma nostro che si chiama Sti Cibo, è necessario che si intervenga immediatamente dopo la chiusura della mensa, e attraverso un procedimento di abbattimento della temperatura e di trasporto in camioncini refrigerati, vengono distribuiti nel giro di un paio d'ore a strutture caritative, che poi a quella loro volta le servono a persone indigenti nelle loro mense. Voi arrivate lì, fate in modo che le porzioni avanzate vengano raffreddate fino a più o meno 0 gradi, 2 gradi, sì, esatto, e servite nel giro di un'ora. Di poche ore. Questo è appunto il numero quando lei chiedeva quante sono le porzioni. Noi nel 2013 abbiamo raccolto quasi 800.000 porzioni, 800.000 piatti pronti. E qual è l'obiettivo che vi prefiggete? Cioè, siete soddisfatti di questo risultato o c'è ancora molto da fare? Allora, di per sé il risultato è stupefacente, perché vuol dire aver salvato 800.000 porzioni che sarebbero state buttate, ma si può fare moltissimo di più. Potremmo dire, buttando l'anima oltre l'ostacolo della difficoltà, del costi, della distribuzione sul territorio, che potremmo arrivare nel giro di un anno e mezzo a raddoppiarle. E quindi dare da mangiare ad altre 700.000 occasioni di consumo per persone indigenti. C'è bisogno che altre aziende che aderiscano, che ancora non aderiscono al programma, aziende, mense, grandi gruppi, si facciano avanti e decidano di donare le eccedenze al Banco Alimentare. Ma perché dovrebbero farlo? E noi, per rispondere a questa domanda, abbiamo disturbato proprio una delle aziende che invece già fornisce le eccedenze. Con noi Emanuela Con, buongiorno. Buongiorno a voi. Emanuela Con è direttore corporate affairs di Nestlé, che aderisce al programma del Banco Alimentare. Perché lo fate? Per una serie di ragioni, immagino, ma sì. Quali sono? Perché qualcun altro che ancora non ha aderito potrebbe così pensarci? Ma allora, io posso testimoniare quella che è la realtà della nostra azienda, che ha iniziato ad aderire al Banco Alimentare, se ricordo bene, probabilmente il dottor Giussani mi può aiutare, oltre 15 anni fa. E noi diamo quello che il dottor Giussani ha descritto perfettamente, cioè ci troviamo con delle eccedenze, quindi abbiamo prodotto più prodotto di quello che siamo riusciti a vendere per varie ragioni, magari prodotti che si conservano molto a lungo, per esempio penso ai cereali per prima colazione, allora si fanno delle promozioni che hanno il flash sulla packaging, e quindi abbiamo delle eccedenze, magari non abbiamo venduto secondo le nostre stime, e quindi a questo punto ci avanzano tante quantità di cibo. A questo punto noi abbiamo solo due alternative. L'alternativa, che diciamo è quella tradizionale e certificata dalla legge, che dice: quando arrivi troppo vicino alla data di scadenza, tu questo cibo lo devi distruggere. E quindi noi abbiamo speso soldi per fare questo cibo, abbiamo comunque speso soldi per distribuirlo e non siamo riusciti, almeno le quantità che avanzano, poi non stiamo parlando di enormi quantità in percentuale sulle nostre produzioni, vorrei anche specificare, però avanza. A questo punto noi dovremmo spendere soldi per distruggerlo, perché il cibo va distrutto, quello che ti avanza, e quindi lo devi mandare in una specie, chiamiamolo, di macero del cibo. E voi lo facevate fino a poco tempo fa, cioè fino a prima dell'adesione? Esatto, perché appunto stiamo parlando di tantissimi anni fa. Sì. A questo punto subentra Banco Alimentare, che ti dà questa seconda alternativa. La seconda alternativa è quella che è stata descritta prima, ovvero non lo distruggere, veniamo noi, te lo portiamo via noi, organizziamo noi insieme alla tua catena logistica il prelievo di questo cibo e gli permettiamo di fare quello che deve fare il cibo, nutrire. Quindi per noi questo è un discorso assolutamente perfetto. Ci toglie un costo, che è il costo della distruzione, e permette al cibo di fare quello per cui è nato, quindi di nutrire le persone. E questo è un esempio estremamente intelligente di dialogo tra quelle che sono le esigenze, purtroppo, e la crisi ci porta alla ribalta ogni giorno l'aumento delle file anche di persone che si servono di strutture caritatevoli per mangiare e le esigenze delle aziende. Ma voi avete anche un ritorno di immagine nell'agire in questo modo? Per la verità il ritorno di immagine in quanto tale no, perché per noi è una comunicazione che non diamo in giro. Voglio dire, se di solito è più Banco Alimentare che dice ma guarda, lo fanno tante aziende per riuscire ad avere, come diceva prima il dottor Giussani, ancora più eccedenze. E quindi per noi non è una questione di immagine, ma se posso sintetizzare molto la domanda che lei prima mi ha fatto, ma perché lo fate? Perché il Banco Alimentare ci risolve un problema. Ci risolve un problema di costo, perché noi dovremmo avere un costo ulteriore per la distruzione del cibo. E all'interno dell'azienda, tra l'altro, come viene accolta questa vostra operatività da parte di chi lavora per voi? Allora, viene accolta molto bene, perché diciamo che le stesse persone che si occupano della catena logistica di distribuzione del cibo, e sono loro poi che dovrebbero farlo, eventualmente mandarlo a distruggere, preferiscono, e anche proprio a livello, come dire, emotivo, preferiscono sapere che quel cibo va a nutrire altre persone che sapere che questo cibo va a distruzione. E quindi tutti i miei colleghi, che ringrazio in questo momento, spero che almeno qualcuno ci stia sentendo, tutti i miei colleghi sono molto più contenti e molto più impegnati a lavorare in maniera efficace, come avviene con Banco Alimentare, perché questo cibo non vada a distruzione. Cioè sono più felici, gli impiegati sì. Sono entusiasti in pratica del fatto che... Le persone che si occupano di questo sono sicuramente molto più entusiaste, tanto è vero che qualche anno fa avevamo iniziato a aiutare i colleghi che lo desideravano, andavano a fare i volontari all'interno del magazzino principale lombardo di Banco Alimentare, sono andati e sono state delle esperienze per loro molto belle che hanno poi anche raccontato, e diversi hanno continuato a farlo. Quindi diciamo che è una questione non tanto di immagine esterna, che francamente non è per noi particolarmente rilevante, ma è una questione di sentimento interno. E anche di motivazione interna. Esatto, di motivazione. Grazie a Manuela Con, l'avete sentito, l'esempio di un'azienda che aderisce al programma del Banco Alimentare. Al di là delle aziende, gli italiani chiedono comportamenti concreti sugli sprechi, per esempio campagne di educazione alimentare nelle scuole. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E all'inizio, quando cominciano ad aderire a queste iniziative del Banco Alimentare, alcune aziende dimostrano diffidenza, nel senso ma andranno veramente questi pasti a finire dove dovrebbero, cioè a chi ha bisogno, o magari in qualche mercatino rionale verranno rivenduti? E poi questo sospetto iniziale in genere viene abbattuto con la pratica e la conoscenza reciproca. Le chiedo, Andrea Giussani, c'è mai stato qualcuno che dopo aver aderito alle vostre iniziative ha fatto retromarcia, ha deciso di non darvele più le eccedenze? Guardi, una delle caratteristiche della collaborazione, della partnership di chi dona alimenti con a noi è proprio questa, che ha delle diffidenze iniziali perché appare quasi impossibile un'operatività di questo genere. Poi, conoscendo il metodo, la rigorosità, l'entusiasmo dei nostri volontari, questa diffidenza si tramuta in una forza e un entusiasmo di collaborazione che non ha interruzioni. Certo, nel corso della produttività dei cicli di produzione potrebbe potrebbe accadere, accade che vi siano minori donazioni nel tempo perché migliorano i processi produttivi e quindi la programmazione. Cioè programmano meglio quello che andrà in vendita. Quindi abbiamo meno eccedenze, no? Ma non possiamo neanche pretendere questo per noi. Quello che non accade mai è che qualcuno interrompa dicendo ah, ho capito che voi non fate bene le cose. Devo dire che questa fa parte di una storia in cui noi continuiamo a dire venite a visitare i nostri magazzini, venite a vedere come lo facciamo, perché questo vi conquista molto di più che non raccontarvi come va. Pochi sanno che ci sono delle sovvenzioni europee alle aziende perché producano proprio per fini, diciamo così, benefici. Come funziona questo meccanismo? Sì, in realtà non le chiamerei sovvenzioni, quanto esistono dei bandi, esisteranno tra poche settimane dei nuovi bandi che permettano di produrre alimenti a scopo sociale con i fondi europei del nuovo programma europeo che si chiama FEAD, che promuove l'utilizzo di fondi europei appunto per produrre alimenti, questa volta quindi non sono eccedenze ma sono produzioni mirate di alimenti di base che vengono destinati a enti come la nostra organizzazione per la distribuzione. Senza guadagno però da parte dell'azienda che lo produce. No, sono bandi a cui ogni produttore può partecipare proponendo una propria serie di prodotti che sono quelli che normalmente produce, ma ovviamente prodotti in una condizione non di profitto ma di copertura dei cicli produttivi e quindi tutto sommato di non svantaggio ma di utilizzo ottimo a scopo sociale. Abbiamo da Parma un ascoltatore che vuole raccontare un'esperienza piuttosto singolare, intanto vi ricordo il numero 800 24 00 24. Pronto, buongiorno. Pronto, frate Andrea? Eccomi. Sì, mi sente? Sì, sì. Ecco. Su qui. Dica. No, dicevo che la nostra mensa, noi abbiamo una mensa, la mensa Padrellino, che ci serve dal banco alimentare, ma non solo quello, noi abbiamo anche una raccolta sul territorio di Parma di altre eccedenze alimentari e di prodotti in scadenza che altrimenti andrebbero buttati via. E noi riusciamo a dare con questo circa 150 pasti quotidiani, più un'ottantina di sportini alimentari e in più riusciamo a dare da distribuire ai nostri frati di Piacenza e di Reggio Emilia che settimanalmente distribuiscono. Per cui c'è una quantità di roba enorme che viene buttata, che andrebbe buttata. E da quanto gestite la mensa in questo modo, frate Andrea? La nostra mensa ha 50 anni, adesso io ho iniziato a gestirla da un anno, sono negli ultimi anni che un po' c'è questo recupero perché in passato si faceva la spesa sostanzialmente, io oggi invece non acquisto nulla. E riesce a distribuire 150 pasti al giorno, e chi è che cucina? Noi abbiamo una signora stipendiata e più una trentina di stipendi di volontari che gestiscono il tutto nella più completa gratuità. E quindi lei ha chiamato per testimoniare quanto il banco alimentare possa veramente svolgere una funzione importante in questo evitare gli sprechi, cibo che altrimenti sarebbe andato distrutto, 700.000 porzioni l'anno, l'avete sentito. Ma come sensibilizzare le scuole, come far sì che non siano solo, diciamo così, i grandi a pensarci, visto che il mondo che consegniamo in mano ai ragazzini sarà a un certo punto delineato e tracciato anche dalle loro scelte. Buongiorno Emilio Roda. Buongiorno a tutti. Emilio Roda organizza tantissimi incontri nelle scuole di una regione particolare, la regione Valle d'Aosta, quindi quante sono in tutto le realtà scolastiche dalle sue parti? Sono 35 istituzioni scolastiche che hanno 170 plessi scolastici dei vari livelli, dalla infanzia alle superiori. E come sono i ragazzi di fronte alle tematiche che lei va a raccontare, cioè alla tematica dell'aiuto e della mancanza di spreco? E immagino non abbia tanto bisogno di richiamare l'attenzione, sono sensibili? Direi che trovo grande sensibilità nei ragazzi, nei giovani. sono molto, molto attenti a queste problematiche e aderiscono molto volentieri alle iniziative che proponiamo. Lei va negli asili, va nelle scuole elementari, nelle medie, nelle superiori, che tipo di scuole visita? Sì, visitiamo quelle che ci chiamano, cioè noi siamo disponibili ad andare in tutte le scuole. Per adesso siamo andati sia nelle infanzie, scuole dell'infanzia, elementari, superiori, è veramente un'esperienza interessante. Ci sono anche dei casi simpatici. Cosa le dicono questi bambini, ragazzi? Vabbè, sì, una volta mi ricordo una ragazzina che stava salutata, ma no, siamo noi che dobbiamo ringraziare perché nessuno mai ci parla di queste cose che sono veramente importanti per capire dove il mondo in cui viviamo. Cioè, mi ha sorpreso una ragazzina che mi ringraziasse per questo. E le hanno mai suggerito dei modi per valorizzare il cibo e evitare che si sprechi? Ma simpatici, mi ricordo un bambinetto un giorno mi raccontavo che bisognava portare a scuola i prodotti a confezionati che non avessero tenuti in frigorifero perché sennò era difficile gestirli. Ma questo bambino insisteva, dice: ma le banane fanno bene, sono buone, io voglio portare le banane. Perché poi voi naturalmente organizzate non solo incontri ma raccolte di cibo all'interno delle scuole. All'interno della scuola. E questo bambino ma non insisteva per portare le banane? Sì. E che problema c'è? Ci metto il ghiaccio e la porto a scuola. Ah, perché in questo caso voi non potete accettare cibo fresco? Cibo fresco è impossibile gestirlo perché i tempi di raccolta, sia nella scuola diamo il tempo di una settimana per raccogliere i prodotti, poi noi stessi dobbiamo passare a tutte le scuole a Val d'Aosta con i camioncini, con i mezzi, le macchine, i volontari, i camioncini, insomma, in qualche modo li recuperiamo, ma ci vuole un po' di tempo, quindi il prodotto fresco è impossibile da gestire. Quando lei lascia la scuola dopo la visita, al di là degli scatoloni che riuscirete a raccogliere, che sensazione ha? Che cosa trae dall'incontro con questi ragazzi? Perché c'è tanta voglia di partecipare al miglioramento del pianeta, perché la questione degli sprechi naturalmente ha a che vedere con l'ambiente. Diciamo che sono tutti molto contenti, molto molto molto soddisfatti di aver partecipato a un gesto di condivisione del bisogno che c'è nella valle, insomma. Senza continuamente e semplicemente delegare, come spesso si fa in Italia per quel che riguarda la risoluzione dei problemi. È veramente bello, è bello vedere questi ragazzi che qualcuno appunto porta soltanto la merendina, ecco, le figurine, ho trovato in un pacco delle figurine, qualcuno ha detto vabbè sì, dammi da mangiare, ma magari anche i bambini vogliono giocare, no? Quindi osservazione inoppugnabile, assolutamente. Quindi lei ha occasione anche di raccogliere questi feedback di grande tenerezza, se vogliamo, nelle scuole, ma soprattutto di coinvolgerle in quella che dovrebbe essere una dei loro compiti, cioè far sentire i ragazzi protagonisti del cambiamento. Grazie per questa testimonianza. Grazie a voi. Emilio Roda, buongiorno, e lavora con il Banco Alimentare della Regione Valle d'Aosta. Roberto, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Dica. Io vorrei dire un po' a tutti quanti, ecco, ho avuto modo più volte di constatare che moltissimi si attaccano in modo morboso alla data di scadenza. Andate oltre, io tantissime volte vado ben oltre alla data di scadenza, annusando, assaggiando, e moltissime volte, anzi quasi tutte le volte, il cibo è buonissimo ancora. Quindi di non focalizzarsi sulla data di scadenza in maniera così maniacale. E c'è un cambio però di mentalità in questa situazione che lei ha preso in esame, perché se fino a poco tempo fa la data di scadenza era una sorta di totem inattaccabile per cui si buttava il cibo, ora sono tantissimi in percentuali gli italiani vigili contro gli sprechi che, nonostante la data di scadenza, controllano se il cibo è veramente degenerato, diciamo, e prima di buttarlo. 8 italiani su 10 secondo l'ultimo rapporto sullo spreco domestico. Ultima cosa, la prego, me la faccia dire a tutti quanti quelli in ascolto, di ricordarsi che inquinare vuol dire molto, e inquinare non la nostra casa, che la nostra casa non è quelle quattro mura dove ci chiudiamo, ma è il pianeta Terra, è un pianeta meraviglioso. Grazie, grazie a Roberto da Bergamo. Gli italiani chiedono comportamenti concreti e naturalmente su quel che riguarda l'ambiente la sensibilizzazione, la sensibilità addirittura è in costante crescita. Pensate che esiste un sito, si chiama Non Sprecare, che ha qualcosa come 150.000 contatti e aderenti, solo italiani, all'interno di questo sito, che suggerisce, che cresce in continuazione, suggerisce mille metodi, non solo nell'alimentare, per proteggere l'ambiente dalla eccessiva produzione di cose che poi vanno sprecate. Silvia Bosco, buongiorno. Buongiorno. Ha sentito lei moltissimi riferimenti anche del bambino che vuole portare le banane al fresco, cioè al fatto che ciò che è fresco ha delle capacità nutritive superiori rispetto a ciò che è secco, e però come fare per non sprecare in quel settore? Lei che è direttore di Terra Nostra Coldiretti. Allora, Coldiretti ha emanato in questa, diciamo, prima parte dell'estate un decalogo sull'uso della frutta e della verdura, quindi come usarla e mantenerla al meglio. Alcune indicazioni che sicuramente sono di buon senso, assolutamente, quindi comprare frutta e verdura in maniera quella che serve, non in maniera aggiuntiva, conservarla e acquistarla nel momento in cui si sta andando a casa, non fare la spesa, poi si va ancora in giro, per evitare appunto che le qualità nutrizionali della frutta e della verdura vadano perdute. Conservarle in frigorifero, in luoghi appositi del frigorifero, preferibilmente in buste di carta piuttosto che nella plastica. Comprare la frutta di stagione, sicuramente, quello che diciamo come Coldiretti è abbastanza ovvio, comprarla di stagione e soprattutto nei mercati di campagna amica, perché c'è ovviamente la filiera si accorcia notevolmente e quindi il consumatore incontra direttamente l'imprenditore agricolo e quindi accorciando la filiera ne può avere diversi benefici che possono essere sia del consumatore sia del nostro imprenditore agricolo. Sulla banana del bambino che porta a scuola è una comodità per i genitori, però teniamo conto che l'Italia non è un grande produttore di banane, quindi quello che possiamo suggerire, anche perché Coldiretti ha un programma di educazione alimentare nelle scuole che porta avanti da oltre 16 anni scolastici, e arrivare a far capire sia ai bambini sia agli insegnanti, ma anche meglio ai genitori, quelle che sono le nostre produzioni e la nostra produzione agricola nel nostro paese. Comunque fa molta tenerezza l'idea del bambino che vuol regalare la banana alla colletta. Ma è molto carino in principio, perché alla colletta alimentare dice ci metto il ghiaccio, quindi la potrete recuperare. Esatto, la si può recuperare. Nel campo degli sprechi, del recupero, diciamo così, delle eccedenze sul fresco, l'Italia è abbastanza avanti dal punto di vista normativo, nel senso che esiste questa legge, si chiama del buon samaritano, almeno così è stata ribattezzata, che permette di recuperare l'alimento se con le stesse normative dell'alimento più o meno secco, cioè se l'alimento è integro praticamente si può recuperare, quindi non ci sono tutte quelle limitazioni che all'estero sono state create e che non permettono l'intervento. Però nel campo del fresco anche Banco Alimentare ci segnalava come andrebbe fatto molto di più, perché sulle mense caritatevoli non arrivino solo cibi secchi. Beh, ovviamente il fresco ha delle, diciamo, delle problematiche diverse, e lo raccontava molto bene il dottor Giussani. Chiaramente, ripeto, ha appunto delle limitazioni oggettive contingenti alla materia, ecco, quindi è un pochino più difficoltosa soprattutto la logistica dello stesso fresco, sia frutta sia verdura, parlo in questo senso. Ma voi raccontate sempre della conoscenza dei prodotti del territorio, frutta di stagione, ciò che l'Italia produce e esporta nel mondo. Ha notato però nella sua esperienza in Coldiretti una maggiore attenzione degli italiani negli ultimi anni? Beh, assolutamente sì, innanzitutto questo si evince dalla presenza dei mercati di campagna amica, cioè questi mercati che sono presenti in tutte le città italiane, anche in questo periodo feriale, in tutti i luoghi di villeggiatura, dove appunto oltre ai mercati abbiamo poi le nostre aziende agrituristiche, le nostre aziende agricole che fanno vendita diretta. Questo significa che nello scorso anno hanno visitato i nostri mercati di campagna amica circa 13 milioni di italiani, non solo visitato ma sono consumatori, quindi dei prodotti che vengono acquistati. Beh, cifra più che ragguardevole, grazie. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 349-238-6666 per i vostri sms, sui suggerimenti naturalmente che possano aiutare in quest'ambito. C'è chi ci dice bisognerebbe vendere sotto costo quello che è il cibo in scadenza, uno degli elementi che ci fa notare Dario. Pronto, Jacopo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Da buongiorno. Dove chiama Jacopo? Allora, io chiamo da Firenze, io sono un responsabile, nel nostro gergo si chiamano capi di guardia, della Misericordia di Firenze. Noi abbiamo un settore che si chiama aiuto alimentare, collegato, sì, al Banco Alimentare Nazionale, e assistiamo circa 500 famiglie, 2000 persone circa. Il problema, come diceva il Presidente, che è difficile, delle volte della legislatura ci impone dei vincoli, per esempio gli scatolame che va in scadenza, che assolutamente è buono, noi potremmo distribuirlo e fare felici molte famiglie. La scatoletta che scade il 10, la fine dell'anno, va bene ancora un anno se è conservata in modo giusto, ma lo stesso il congelato, lo stesso il fresco. E noi purtroppo, noi abbiamo, disponiamo di frigoriferi, di congelatori, di camion frigoriferi, tutto per recuperare queste cose, però delle volte la legislazione, nonostante sia sicuramente migliorata in questi anni, ci impone di non poter aiutare quello che si potrebbe. Questo vale più sul fresco ovviamente che sullo scatolame, ma se si potesse... Sul fresco che limitazioni avete? Cioè cos'è che riuscite a recuperare? Ma noi recuperiamo moltissimo dal Banco Alimentare Nazionale, da alcune aziende, per esempio dal mercato ortofrutticolo di Firenze, ci dà delle cassoni di roba fresca, che noi distribuiamo la roba facilmente perché abbiamo due negozi dove i nostri assistiti vengono a fare la spesa gratuitamente, ovviamente, con dei controlli sul necessario bisogno delle famiglie. Però delle volte ci arriva un cassone enorme di mele e quelle purtroppo le distribuiamo, però durano due giorni, mentre invece il congelato riusciamo a darlo molto meglio, quindi ci vorrebbe un pochino più di elasticità. Oltretutto noi facciamo anche delle raccolte a livello sui consumatori dei supermercati, io devo ringraziare la Coop per esempio e anche l'Esselunga in Toscana che ci permette di fare delle raccolte di gente, che dei clienti dei grandi supermercati che comprano della roba che viene poi data ai nostri volontari che la raccolgono all'uscita. Fanno la spesa e comprano qualcosa di più in una sorta di colletta alimentare, ed è questa una pratica che potrebbe essere facilmente diffusa in molte, un numero superiore di realtà rispetto a quelle che lo fanno fino ad oggi. Grazie Jacopo per questa testimonianza dalla mensa di Firenze. Silvia Bosco, dunque, questa problematica ancora una volta legata al fresco e all'elasticità mentale. Non è detto che la data di scadenza di un congelato comprometta la sicurezza dell'alimento, come Coldiretti, che direttive date? Beh, insomma, innanzitutto controllare ovviamente la confezione se è integra, verificare, ma lo diceva anche molto bene lei prima di buttare via, controllare effettivamente se il contenuto è ancora utilizzabile, e questo insomma evita un ulteriore spreco, questo è quello che noi diciamo. Ovviamente la nostra indicazione è di comprare prodotto che serve per evitare ulteriori sprechi familiari, e soprattutto comprare prodotto del territorio, di stagione del territorio, e vogliamo dire anche a chilometro zero. Questo evita anche sprechi assolutamente di energia, assolutamente inutili. L'esempio principe è le ciliegie a Natale, perché comprare le ciliegie che arrivano dal Cile quando noi a maggio possiamo assaggiare le migliori ciliegie del mondo. Frutta di stagione, conoscenza del territorio, beh, richiede anche una certa conoscenza geografica del proprio territorio, che a volte sembra una materia noiosa. Eppure c'è perfino un master dell'Università di Modena sul patrimonio enogastronomico che vuole conciliare queste conoscenze al divertimento. In che modo? Ce lo spiega uno dei partecipanti. Buongiorno, benvenuto Raul Dauli. Buongiorno, buongiorno. Che cosa fate in questo master? Ma noi abbiamo un obiettivo di fondo, quello di affermare che il cibo è prima di tutto un fenomeno culturale, e dietro la cultura, come la lettura di un libro, un'esperienza teatrale, un cinema, insomma il cibo è cultura, e dietro questa cultura c'è un paesaggio, c'è un territorio, c'è una tradizione, c'è la conoscenza di come si prepara un cibo. Una ricerca, ad esempio, ha dimostrato che, paragonando la storia dell'uomo, no, dall'uomo erectus fino ad oggi, se questa storia durasse 24 ore, solo negli ultimi due minuti l'uomo si fa agricoltore. E in più, negli ultimi secondi è successo qualcos'altro, cioè il fatto che il cibo così confezionato, industrializzato, diventa anonimo, diventa un prodotto come tutti gli altri, in cui si valuta se è comodo, se fa risparmiare tempo. Certo, se fa risparmiare tempo soprattutto. Questo ci fa perdere però, ecco, anche nell'utilità che può avere queste scoperte, però ci fanno perdere l'elemento culturale. Ad esempio mi viene in mente una pubblicità, no? Mi viene in mente una pubblicità che la nonna che preparava la pasta asciutta, a un certo punto se ne va e finalmente i bimbi brindano e la nonna se n'è andata, adesso finalmente facciamo quattro salti in padella. Allora, questa non la conoscevo. È un attentato proprio alla, voglio dire, la nonna è sempre stata per tutti noi uno degli elementi fondamentali di congiunzione tra il mangiare e l'aspetto culturale. Però forse, allora, scusi Daoli, ma forse anche a questo è dovuto questo abbandono, no, della cura per il cibo, perché comunque quando il cibo si curava di più c'era un esercito di donne schiave che doveva, era confinata come missione nella vita in cucina per saziare gli altri della famiglia e certo non poteva far altro. Forse anche questo ha contribuito al declino, no? Di una certa cultura. Non demonizziamo e in ogni cosa ci sono gli aspetti positivi, però allo stesso tempo, partendo da questo problema anche dello spreco, se noi non recuperiamo una dimensione culturale del cibo, dello stare a tavola, del fatto che i bimbi devono finire ciò che è nel piatto, di non mettere la televisione nella sala da pranzo, il fatto che il nutrirsi è un'esperienza collettiva di conversazione, allora noi non recuperiamo un valore del cibo. Allora, questo master, che parte appunto dall'Università di Modena e Reggio, trova un anello di congiunzione ad esempio nel prodotto tipico. Pensiamo, non so, al parmigiano reggiano, no? Che forse oggi è uno dei prodotti più esportati al mondo come formaggio, però resta una dimensione artigianale di conoscenza del territorio, di come si mette. Ma come trasmetterla? Voi avete un progetto singolare molto divertente, cioè di fare una specie di parco dei divertimenti con tema il cibo, così che le famiglie ci possano passare giornate intere a giocare con la produzione del parmigiano e non solo. Dove si farà questo parco? Ma l'idea è quella di utilizzare in modo positivo alcune, come dire, intuizioni, ecco, anche della valorizzazione delle esperienze come i parchi a tema, attraverso la valorizzazione di quegli aspetti culturali del cibo che dicevo prima. Allora, e pensa che questo potrebbe ridurre questi 8 miliardi di euro all'anno in cibo che finisce in spazzatura in Italia? In tutto serve, quindi il fatto che si acquisisca una maggiore consapevolezza culturale, no, che dietro a un alimento c'è una buona ricetta, c'è una conoscenza, vuol dire c'è una fatica anche, no? C'è un sacrificio in termini ambientali, territoriali, vuole anche dire aumentare questa attenzione, questa consapevolezza che nutrirsi non è solo prendere una pillola, ma è appunto quel fenomeno culturale di luogo che dicevo prima. Questo parco vuole essere quindi un modo per valorizzare il territorio, per mettere in rete le aziende che producono prodotti tipici locali e per promuoverne quindi la cultura, le ricette, il modo di stare a tavola. Si possono organizzare corsi di cucina, si possono organizzare visite nel territorio, esperienze. Oggi vuol dire molto fare esperienza con la famiglia, con i bambini, andare nella latteria, provare la mungitura, provare andare alla vendemmia, quindi capire che dietro a ciò che mangiamo ci sono degli aspetti di conoscenza territoriale profondi e forse quello che ci lega al nostro territorio. Grazie a Raul Daoli. Abbiamo sentito qualcosa che viene sottolineato spesso dagli stranieri, cioè i corrispondenti stranieri al mattino ci raccontano di tonnellate di articoli e corrispondenze proprio su questi aspetti dell'enogastronomia molto apprezzati fuori, forse un po' più sconosciuti da noi, che contribuiscono forse a questa nostra propensione allo spreco. È il momento dei saluti. Saluti parchi senza sprechi di parole. Pietro Lacorte, grazie per aver curato la parte tecnica e poi per la confezione del programma. Barbara Bianchi, Alessandro Casali, li ringrazio tutti e vi do appuntamento con partenza alle 8:10 di domani mattina a Spunti di Vista del martedì. Un saluto da Irene Zerbini.